fratella, la di gloria sovrana, altra divina. L'uccello ne è rimasto. Scandisce per i versi. Peccato. Eccola, basta. M'arrendo all'impero. Tutti uscite e ogni soglia sia chiusa all'audace. credo o non devo dirglielo. Meglio doman. Ma doman sarò vecchio anche di più. Sbigottimenti vani. Dunque si parli or su. Oh! Stasera, al alle 11 laggiù nel solito villino presso la Senna. Il mio. Per un affare d'alta politica, graziosissimo. Lo so ben io. Atteso siete, fede e silenzio, punto. E la firma? Costanza? Perfida! Chi suo pseudonimo? Da me trovato. Oh, non è memore. Costanza ironica e istrionica. Vedi il recapito. Terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto! Conosci il complice? Forse. Maurizio! Il conte! Entrare l'ho visto là. E dunque lui? E dubbio non va. Che far? Laggiù! Nel villino! Fai un vestito! Offerto di attore! Ti piace il disegno? Mirabile ardito! Di guerra partito! Fratello d'amore! Ardito, vogliamo due torsoli, senza altro sospetto, il dolce duetto, rimetterlo fra, di parte cenere, e loro si ripete, ma delle lare, non mai sopra, e tutta Parigi, appena ridesta, e fino alle festa, l'intento saprà, dare dell'incauti, amare di bene, ma riderà bene, chi poi riderà? Questo al numero 3 a destra. Non soltanto dei nomi la vendetta è piacere. Gaio vestito, ti piace il disegno? Mirabile ardito, di quello partito, fratello d'amore. Mirabile ardito, tanto sospetto, rimettendo fra, e non si ripete, appena ridesta, tanto saprà, amore di bene, chi mai riderà? Al vostro posto! Al vostro posto! Thank you. Thank you.